Amor de la patrulla, dice no tru, dice no tru. Amor de la patrulla, dice no tru, dice no tru. Ussurella figlia la botta, la patrulla di peggio mot. Ussurella figlia la botta, la patrulla di peggio mot. Amor de la patrulla, dice no tru, dice no tru. Amor de la patrulla, dice no tru, dice no tru. Ussurella figlia la tomba, la patrona di Carla Grund. Ussurella figlia la tomba, la patrona di Carla Grund. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Gentilmente la patrona sospiri, desta e corte la giornata. Gentilmente la patrona sospiri, desta e corte la giornata. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Cito patrono sospira, pecca, predi, gioia, diede in mano. Cito patrono sospira, pecca, predi, gioia, diede in mano. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Per amore di la patrona gli dici no tru, gli dici no tru. Per amore di la patrona.